microfossili, una radioserie ritornerà come i vecchi tempi, che non c'era per nessuno. Mi ricordo il vecchio Natalino Alfa 1 che schicchiava forte dalla postazione di Filighedo, era uno dei segnali più forti. La memoria mia si ricorda Natalino dei tempi buoni. Fatto. Poi avevo le apparecchiature, adesso non c'ho più nulla. E mi devo accontentare di vizio per il momento, non si può fare nulla. Vabbè, salutone a tutti, quello ti permette. Astorino, ti devo chiedere una cosa. Carica. Non lo sentivo, volevo dirgli, se mi dà la via, vado a rubargli la mantova dal tetto, la metto sopra la casa. Già, e vuoi rubare? Ma io te la regalo anche. Sopra 12 metri di palo, bisognerebbe per scenderla, scendere i 6 metri che ci sono in punta, tanto entra uno dentro l'altro. E poi però è un macello a scenderla senza romperla. È un peccato d'antenna, è una mantova 5. È difficoltoso a toglierla, se no l'avrei tolta, L'avrei tolta e magari me l'avrei piazzata vicino a dove abito io, perché io lì non ci abito più, abito a fianco, e quindi praticamente devo spostarla l'antenna. Ehi, ho capito. Ehi, vabbè, no, dai, stavo scherzando. Non ho capito che stavi scherzando. Saluti dalla 50, vabbè, ciao Riccardio, me ne passo in QRT, già ti turbo qua, chissà le maledizioni che mi stanno mandando. Ciao a tutti. Dì la verità, sto andando a vedere a bene. Io sto andando a vedermi un po' di TV, non so neanche chi ci sia, non sono malizioso come te. Babbo, là, io chiudo, là, ci sentiamo. Buonanotte a tutti. Sto andando a guardare una bella, io lo dico. Che Gianni si sa di Bombele. Ok, ciao Gian, buonanotte, dai, buon tutto e buon Belè. Ciao Gianni, ciao Natalino. Scherzo, mi piace il programma, dai, mi piace, mi diverto. Ma che programma è? Non ho capito poi cosa state guardando. Tu sì che vales. No, ho capito, ho capito. Ma c'è quello Gibi, Yuri Coso, Maria De Filippi, quello lì è. Sì, io. Ma diciamo qualche volta è capitato di sfuggita di vederlo, non per Belen che non me ne ha fatto nulla, a me non piace, vabbè, comunque piace a un bel di gente, non è dei gusti miei. Ok, vediamo qua chi è rimasto, c'è di nuovo Gianni, c'è di nuovo Natalino, e Lupo Grigio, aspetta se c'è ancora, se vuole salutare a Gianni e a Natalino, avanti Lupo Grigio. C'è proprio reazione adesso, sta disturbando. Vai Riccardo. Ehi, al pomeriggio gli ho già trovato l'apparecchio per lui, e che non glielo voglio dire via radio, voglio dire o a quattro occhi in verticale o al telefono, perché no, il problema più grande è che non ho il numero, perché non piace quando dico che non ti sento, tipo anche adesso non lo sento e mi dispiace. Avanti il break. Ciao Claudio, ben sentito, dai, ti ascolto benissimo, radio chiara e segnale, non è abbruttosa come molte volte, dai, stai andando benissimo, segnale 9+15, avanti Riccardo. Ciao Claudio, ben ascoltato, arrivi forte almeno tu. E oggi ho visto tutta la settimana un picco così alto, non l'avevo mai visto, non credo di vederla perché mi addormenterò a quell'ora, però tu che sei a muro, se c'è la possibilità, come Riccardino ancora meglio, di non avere troppo disturbo inquinamento luminoso, dovrebbe vedersi bene oggi, perché c'è una giornata serena, pulita, c'è uscito un po' di vento, ha pulito anche le poche foschie che c'era. Uè, ci siete ancora? Funzionate. Ehi, aspetta, facciamo entrare Marco che ci ha sovramodulato. Non volendo, buonasera a tutti. No, io stavo seguendo su Focus, c'è tutta una maratona della di roba della NASA, di Cape Canaveral, un programma è finito adesso, credo di non trovarvi ancora, è interessante, dalle 18.15 che c'è roba inerente sempre alle attività spaziali, adesso ne inizio un altro, quindi sono entrato per un saluto e vado a assorbirmi anche quello. Buonasera Chiodo, Riccardo, ho sentito, e Roberto, non so chi altro ci sia, vai Robè. Stanno festeggiando la NASA quest'anno dopo l'ultimo movimento che ha fatto la NASA partendo dagli Stati Uniti, perché la NASA sta utilizzando altri vettori, diciamo altre situazioni per i lanciatori, dopo mi sembra 11 anni, adesso mi ricordo quando è successo quell'incidente dello shuttle, 11-12 anni adesso non voglio dire fesserie, a luglio utilizza per la prima volta dopo tanti anni direttamente partire da coso, da Cape Canaveral, con un apparecchio, uno shuttle che rientrerà sulla Terra e si servirà per congiungersi alla stazione spaziale internazionale. Leia. Comunque interessanti sempre queste cose qua, poi vabbè bisogna avere un po', non dico la passione, ma un po' di amore per la scienza, per questi argomenti qua. Io rilancio subito Riccardo, vai avanti. Ok, ciao Marco, ti saluto, comunque mi sa che più tardi quando rientro dentro casa prima mi faccio un giro di propagazione e poi guardo Focus a vedere cosa c'è di interessante della NASA. Eia. Comunque Robè, io oggi tenterò di vedere il passaggio, sul terrazzo non posso salire perché cioè devo cambiare strada, palazzo, mi preparo il binocolo, vedo quello che riesco a vedere, ma noi sappiamo già come andrà a finire, no? Guarda, me lo salita anche io un piccolo binocolo, c'è il telescopio, ma no, è impossibile, ho il telescopio, a meno che non ce l'hai motorizzato, ti imposti già tutte le posizioni, se no non ci riesci, con latitudine e longitudine ci riusciresti con uno motorizzato, però farlo di seguimento manuale, acqua da prendere è già passato 10 volte, no, è impossibile, già ho avuto difficoltà, quando c'era la cometa lì, tanti anni fa, inseguirla era un problema, quando c'era una focale molto, molto larga. Ok, e poi facciamo prendere a Claudio, volevo dirgli qualche cosa, avanti Claudio. Sì, sì, è possibilissimo, certo, loro collegano, sono quasi sempre in collegamento con la NASA, con la, diciamo, la stazione base di ricezione terrestre, a parte poi ci sono tutti i punti dislocati in tutto il globo, gli impianti di ricezione sono collegati, loro trasmettono su tante frequenze, diciamo quelle civili, chiamiamole civili, quelle aperte a tutte sono sui 144 e sui 436, però hanno tantissime frequenze, su tante bande, perché fanno anche esperimenti di lì di trasmissione, utilizzano i moduli, i tipi di coso di modulazione particolari, cioè fanno degli esperimenti particolari, però la frequenza più facile è 145-800 NFM. Scusate se riprendo, vado in carica batterie e ci sentiamo più tardi, ciao a tutti, ciao Marco, Claudio, Roberto e spero di risentirvi più tardi. Abbiate parlato in due, Ricca, un attimino. Aspetta Claudio, che avete parlato insieme con Riccardino, ha detto che sta andando a fare carica batteria, li facciamo rientrare. Avanti Riccardino. Sì, scusate, perché mi stavo chiamando insistentemente, che vado in carica batterie. Scusa Claudio, è colpa mia se ti ho sovramodulato. E come ho detto, saluto a Marco, a te Claudio e a Roberto e ci sentiamo più tardi, spero di risentirvi e anche a tutti gli eventuali in ascolto tipo il pomeriggio. Ciao, a più tardi. Ok, riprendo io, ciao Riccardino, dai, non so se ci sono dopo, comunque buona carica, buon tutto, saluta a tutti in famiglia e mangia il giusto. Vai Claudio. Eia. Ciao Riccardo, buon carica batterie, buon tutto e vabbè, se è più tardi bene, se no domani quando capita. Eia, ma ti volevo dire Robè, siccome c'avevo molta mondezza su quel canale, avevo messo tutto offline e stavo cancellando anche video non più necessari e sto rimettendo online piano piano le cose, perché se magari vai a vederlo adesso il video, se lo devi girare a qualcuno della ISS è offline, però lo sto rimettendo online adesso. Ho dovuto fare un repulisti vecchio di 12 anni, 12 anni mondezza su YouTube, vai. No, no, è una bella cosa, dai, carina, interessante, tienilo, magari togli se c'è qualche parte che magari non ti interessa, tieni le parti più essenziali, dai, no, no, è bella, si sente anche molto chiara, è interessante, dai, è interessante. Poi tornando al discorso di focus, molte volte se avete passione per argomenti tecnici, cosa, non è detto che li devi guardare in diretta, te ne vai su coso, su YouTube ti scegli la puntata, perché voi tu ci sono un sacco di cose da vedere, e migliaia e migliaia di argomenti, io lo faccio spesso quando mi interessa qualche cosa, vado e mi cerco con la puntata lì, le trovi, come e soprattutto è capitato su argomenti che interessano a me, oltre che questi discorsi astronomici eccetera eccetera, ci sono anche altre cose, soprattutto nel campo di lavoro mio, quando mi interessa qualche cosa vado, ormai è diventata un'abitudine, anche quando arriva qualche mezzo nuovo al lavoro, c'è difficoltà di vedere qualcosa, dici come si smonta quello, come se c'ha difetti quel coso lì, ci sono tutti i forum eccetera eccetera, tutto quello che volete ormai si trova. Ed è la cosa più bella che possiamo ringraziare la rete. Sì, poi si trovano, è che io sempre con non mi organizzo mai bene per le cose. Dunque per Claudio ho aumentato appena appena nel caso che la propagazione mi copra, dai, vai Claudio. Allora, riguardo di quella chiavettina, ti ricordi quel discorso che abbiamo avuto l'altro giorno, ho fatto tutto, mi ha prestato una chiavetta proprio dedicata, una di queste, aspetta come si chiama, DVB-T più T, DAB più FM più SDR, c'è tutta questa roba qua, l'ho provata con i tuoi programmi e va tutto bene. L'unica sorpresa, che io non ho capito cosa sia successo, ho andato in saturazione lo stadio d'ingresso del ricevitore, c'avevo i segnali bassissimi, molto ma molto bassi, l'ho provato prima in officina con l'antennina, siccome con quella chiavetta le danno un'antennina di 10 cm che è ridicola, ho ascoltato le broadcasting 8808, ho ascoltato tutto quanto benissimo, considerando che era un'antennina, dopodiché sono salito a casa e poi ci voglio divertire con l'antenna grande, invece stranamente tutti i segnali bassi avevo, poi si è intrippata, per uscire ho dovuto perdere un po' di tempo, ho dovuto poi cancellare, spegnere il computer e riavviare. E qual è di tutte le migliori? Quella SDR Sharp è la migliore, confermi? Non mi ricordo se ho toccato qualcosa, ma credo di no, diciamo più o meno che lo so usare lo strumento, però ho visto che erano tutti bassi il coso e poi in un'applicazione addirittura le modulazioni erano completamente sporche e sembrava fuori, non dico fuori frequenza, ma sparate, ho toccato la cosa, la deviazione, ho cercato di migliorarle, però non so se il problema dipenda dal computer mio, quello lì, perché lo stavo ascoltando con l'altro parlantino del computer, però era molto gracchiato la modulazione, ho cercato di correggere toccando la enfasi della, per dire, ho fatto delle prove in coso in FM normale, FM 8808 dove l'enfasi è 75 microsecondi, ho provato a modificarla e un pochettino ha migliorato, però la qualità non era un granché, pensavo, ho detto, magari perché il segnale è stereo non riesce a agganciarlo bene, l'ho messo in mono tutto quanto, però poi a un certo punto si è abbassato tantissimo tutti i segnali e non riuscivo a capire, addirittura il 27 ascoltavo solo Claudio, gli altri bassi, bassi, bassi. Ma io l'ho provato in officina col computer e con la sua antennina piccolina e ho ascoltato solo 8808 discretamente, diciamo, considerando che ero dentro in un posto chiuso, tutte le cose c'erano. Poi sono salito a casa e ho detto, buh, che strano, sento bassi segnali, sono andato, la prima cosa l'ho provato in 27 e sentivo solo Claudio che è vicino e poi un attimino Marco, ho sentito questo ieri o avanti ieri, non mi ricordo se è successo, forse avanti ieri è successo, infatti alla fine mi sono anche fatto, l'ho tirata via. Poi mi è venuto un dubbio, ho detto, ma siccome c'erano delle ho messo un barilotto con un adattatore eccetera, ho detto, magari che quel cacchio di barilotto è in perdita, magari non ho avuto il tempo di vedere se era in corto, ma non credo, perché un anfe non ci credo che sia in corto, dovrò fare una prova col tester per vederlo, così mi tolgo tutti i dubbi. Allora, qua non c'è scritto niente, sulla pennina non l'ho neanche aperta perché non è la mia, però è proprio comprata apposta per il, aspetta se c'è scritto USB 2.0, comunque c'era anche l'RDS, il DAB, cioè, perché c'è scritto DVB terrestre, più DAB, più FM, più SDR, cioè è un'antenna, è una chiavetta specifica per l'ascolto, l'ha comprata, non mi ricordo da dove, il padre di Riccardino, me l'ha prestata lui, e anche una tendina in dotazione, no, ha funzionato la prima direttamente senza nessun problema, senza adattamento, al contrario di quella mia, però non capisco cosa sia successo, allora che non erano talmente furti di segnali e devi mettere magari degli attenuatori, non lo so, devi, che stava saturando, non lo so sinceramente. È più grande di una pennina normale, ti ricordi quella che ho portato io da te, quella grigia che non andava bene per il digitale terrestre, questa è leggermente più grande, grigio scuro. Allora, questa è USB 2.0, c'è scritto. C'è una cosa molto interessante, sono arrivato sino a quasi 10 giga, 9999. No, l'antenna già è buona, è molto in alto, oppure se ce l'ho attaccata, io faccio la di ascolto, già lo sai, è un'antenna molto, non dico che sia una eccezionale, ma è una buona antenna, ascolto tante cose che diciamo che sono molto difficili da ascoltare, nel senso come segnali molto lontani con altri ricevitori, va benissimo, ma tolto il dubbio, se non c'è un segnale che ascolto solo con un ricevitore, gli altri non ce la fanno, il 7000 non ce la fa, quello della ICOM non riesce ad arrivare, ho detto a vedere se c'è problema sull'antenna, attaccato l'altro ricevitore, no, l'antenna sta funzionando perfettamente. Sì. Sì, c'era anche HF, ho fatto la prova in HF, però non ho collegato l'antenna dedicata, perché l'HF c'ho la multibanda per collegare, oppure ho utilizzato anche la mantova, che va bene lo stesso per ascoltare. Però no, ho fatto una prova così, mi interessava ascoltare le frequenze più in alto, dai. Sono partito dalla 27, poi sono arrivati a 88-108, non sono arrivato nei 2 metri in frequenze più ancora più alte, non ci sono salito. Scusa Marco per il monopolio, no, mi interessa, anche siccome qua normalmente siamo sulla 27, siccome quel sistema c'ha DSP, quel programmino lì, volevo provarlo su segnali deboli, quando sono segnali molto lontani, correggere, stringere un pochettino, migliorare la cosa, non dico la sensibilità, la selettività del coso, della ricezione dei segnali lontano, pulire il QRM, siccome c'ha un sacco di funzioni, detto, voglio un po' vedere cosa fa, però non ho avuto modo di farlo, di provarlo, adesso è che ieri ero un po' stanco, quando c'ho qualche mezz'oretta in più di tempo voglio fare delle prove più decenti, però dimmi una cosa, l'ultima domanda, così poi faccio riprendere a Marco, il tuo ricevitore, la tua chiavetta arriva a 9999 o arriva anche, cioè, o no? giga, 9999 MHz, ci arriva la tua chiavetta. Infatti ho visto che arrivava, quando hai provato tu, arrivava a 2300-2400 circa, dai, 2 giga e 4, e si fermava lì, mentre questo saliva ancora, infatti adesso avrei quanto sale, e sono arrivato quasi a 10.000, o forse anche di più, adesso non voglio dire una fesseria, forse anche a 11.000, a 11 giga, e mi ha meravigliato questo qui, ho detto che è strano, poi questa chiavetta molto espansa, perché qua c'è un sacco di funzioni, c'è scritto... c'è DAB, l'FM, DSR, SDR, eccetera, al contrario di tutte le altre chiavette che ho visto. Marco, ci sei ancora? Sì, sono. Avanti, adesso alla fine mi metto a seguire quella cosetta, così la serata è fatta, dai, robè. La sentiamo in un'altra occasione, ok? Quindi saluto Chiodo, pare sia rimasto solo lui, a meno che non sia rientrato Riccardo, dai, saluto tutti e ci sentiamo nel prossimo, dai. Adesso poi tenterò a mezzanotte, se non mi addormento tenterò di guardare qualcosa al binocolo, dai. Vai Robè, buona serata a tutti, ciao. Ciao Marco, ben sentito, dai, c'avevo modo di ascoltarti, è entrato anche Antonello Pompugno, avanti Antonello per Marco e poi lancerà Claudio da Muro. Ciao Marco, ci sentiamo, buonanotte alla televisione. Ciao Antone, guarda che l'altra sera l'hai letto il messaggio, ha crashato l'applicazione, non sentivo più nulla, non funzionava più, ho dovuto proprio chiuderla. Ciao Antone, anche a te, dai, sentiamo, ciao a tutti, vai Chiodo. Buonasera anche a te, ben ascoltato. Tu non so, per sbaglio? Oh, chiaro? Cos'è Antonio? Sei solo tanto, no? Ma no, non più di tanto, già ti ascolto. Ok, va bene, allora lo stacco. Cazzo, fa poco il gas il cavetto, va. Sai, da 9,50 a 9,60 e oltre, quanto gliene stai dando? Al minimo e al massimo? Allora, così... Più ci vado dovrebbero essere. Ecco qua. Potenza 6. E sarebbe 100. Cosa del genere, 100 watt. Se oltre 9,60, dai, un bel. Tira forte sul giocattolo. Ok, mentre tu quanto gliene stai dando, Claudio? No, no, ti ascolto facilmente. 9+15, radio 5. Anche a te stai andando alla grande. Cosa volevo dire? No, adesso voglio un po' divertirmi quando ho tempo, ripeto, con quella rete, però lo voglio mettere su un altro computer, perché quel computer la qualità di non mi piace, questo che c'ho io. Mi hanno detto che devi fare delle modifiche via software su Windows 10, me lo stava dicendo Luca, io non ne capisco niente, devo farlo vedere, perché sennò ti strozza, ti dà tutti gli acuti anziché dare una cosa, un ascolto naturale. Non capisco cosa sia successo, perché poi di colpo l'ha fatto, mi ha attenuato un sacco i segnali, l'esatto rispetto te li faceva vedere, però erano molto bassi, i 27 ascoltavo solo a Claudio e Santiago 9, tra l'altro con quell'indicatore di 9-10, gli altri erano tutti in mezzo al QRM, Marco mio un pochettino arrivava forte, infatti volevo fare le prove io con tutti i sistemi di coso, di pulizia con il DSP per cercare di migliorare sui segnali lontani, e faceva vedere così quando per dire facciamo dei collegamenti e utilizzo quello lì come ricevitore. Ma da quando ce l'hai tu questa chiave? 5-6 anni, questa non è vecchia, l'ha acquistata da poco, non credo che le abbiano dato una cosa vecchia, è un radioamatore lo stesso che le vende queste qua, ma è nuova, si vede che c'ha già il DAB, cacchio, il DAB è uscito da poco, non è una cosa vecchia. L'antenna multibanda che come si chiama, che va dai 30 ai 1400. Sì, no, adesso non posso farlo, tra l'altro non so neanche il computer, lo voglio provare con calma, così vedo un pochettino di trovare qualche cosa, secondo me c'è qualche problemino, dai. Oh, signori, io adesso però vi voglio lasciare, che è già un po' tardino, sono un po' stanco, dai. Salutate Claudio, sempre un piacere, idem ad Antonello, ascoltarvi, e saluto qua a tutti gli eventuali amici sul canale 10, io vado a fare la nanna, che domani si trabacca. Ciao ciao, correti da parte mia, buonanotte a tutti. Ciao, dopo ci sentiamo, stiamo bene, buon corretti, buon tutto. E allora, Claudio, che tuo padre lo sta facendo? Ehi, stai crescendo benissimo adesso, visto che l'hai allineato bene, almeno esce chiaro, è perfetto. No, sei saturo e c'è un buon segnale, quasi 9.30, sì, 9.28. No, già sta arrivando bene a Puglia. Adesso mi ha tirato per andare a prendere i pezzi per modificare l'ancheggio e vediamo se mi dà un pochettino di vatto in più. No, sto usando un coso, sto usando un ordinale, sto usando, capito? Tipo quello che c'è tu, solo che questo è transistor. Io voglio che c'è bene, ci mancherebbe. E dici perfetto. Quindi si sta attrezzando, va. Almeno li usa un pochettino tutti, li usa gli apparecchi. Già va bene. Cambia così, ha voglia e tuba. Gli è attrezzato troppo male, diciamo. Almeno esce come si deve e pompa. Se non va bene cosa lo devi fare, lascia questa qui, gli apparecchi già va bene lo stesso, questa lunga che va bene, esce bene. Già l'ho sentito già, quindi già vi siete divertiti, e beh, almeno quando passate l'ora così è bello. Thank you. scappa, l'importante è sentirti, da poi spostare l'antenna. Tu stai arrivando benissimo, contro le tragedie che abbiamo sentito ultimamente, proprio bene bene pulito pulito, e complimenti. Mi sembra che sente qualcuno vuole entrare. Chi è vuole entrare? Giuseppe. Ancora che ho fatto carica perché dicono che è pronto e poi non è pronto. Aspetta, capisci, c'era Giuseppe, avanti Giuseppe. Non fischi, ma Giuseppe stai uscendo, dove hai appoggiato il gambetto? Sei Santiago 5, sì, abbassa per la pelle Mike Green. Lo scuffi Fabio, Giuseppe Leoncino. Negativo, negativo, non lo so, adesso ci trovo con la stazione a mettere il classificatore, vediamo se lo sento. Giuseppe, ecco, adesso ti ho sentito, adesso vai meglio. No, c'è Fabio Master e coso, e Claudio Chirogilito qua da Sassari, e poi c'è Riccardino che dovresti sentire bene. Lo senti a Giuseppe, tu sì? Sì, io lo sento. Comunque, Antonè, sto cercando di risalire al tuo numero che ti devo chiedere una cosa. Oh, non ce la facciamo. Il mio numero? Lì, se vuoi trovare la baracchina, qual è il problema? Se lo vuoi. Chi me lo dà? Detto, se vuoi il numero mio te lo do, qual è il problema? Te lo do anche a baracchino, non è che succede niente. Sì, perché ti devo chiedere una cosa. Riccardo? Fabio sono, ecco, guarda che ho il mio numero a Luca. Hai mandato il tuo numero a Luca? Così lo puoi dare a te se vuoi, tu lo stavi cercando, mi dovevi dire non so che cosa e poi... Infatti da Antonello gli volevo chiedere il numero perché se mi dava quello di Fabio. Io sono, ho capito che Luca ce l'ha il tuo numero. Sì, Luca, Luca sì, ce l'ha il mio numero. Chiedilo a lui che gli ha mandato un messaggio. Ok, io chiedo a lui. Cioè, adesso mi stavo chiamando che è pronto, sicuro. Scusatemi se mi intrometto sempre, adesso devo riandare. Scusate se sono entrato e poi non faccio queste O. Non ti preoccupare, Cati, tutti abbiamo cose da fare, non è che... è bello comunque fare qualche minuto in radio, dai. Come al solito, cosa piacere, poi magari quando finisci il caricatore della batteria, quando sei bello carico, rientra, magari ci siamo ancora. Sì, certo, sicuro che rientro, già torno più tardi. Va bene, ciao Fabio, Antonello, Claudio e tutti gli altri eventuali in ascolto, ci sentiamo più tardi se ci siete ancora. Gamba, ciao Riccardino. Avanti, Antonello, io volevo salutare un po' la ruota, ho capito che c'è Marco, c'è Renato, c'è Renato. Avanti tu che io, non ci sono, non sento. Che sta facendo col diplomo, ma è dentro a casa, capito? Adesso domani no, che lo metto fuori, almeno esce meglio. Tutte le frequenze, tutte le frequenze ho fatto. Tutte le frequenze hai fatto. L'ho fatto oscillare su tutte frequentimetro. Non è preciso perché si sposta di qualche punto, però... vabbè, quello poi lo correggo in maniera tale che quando è al centro i clarifier sia al centro della frequenza, capito? Però dove fate 5 bande rispondono di poco, diciamo che rispondono, ma si possono allineare, comunque sono tutti adesso e non salta niente. Meglio così, sono contento, almeno è tranquillo con l'apparecchio. Andrà bene, avanti Claudio. Ciao Cla, ci sentiamo alle prossime, stiamo bene. Avanti Giuseppe. Giuseppe. Allora portiamo di qua il rodare. Cosa? Fabio, non ho capito. Facciamoci questo apparato che più serio, dai. Così almeno l'altro scaduccato lo portiamo a casa, che meglio. Ti mendi, sì. E già, mio moglie deve mettere mano in quell'apparato. Te l'ho detto, dai, gli diamo questo qua che funziona bene, tutto è perfetto e se lo rompe non importa. Sì, vabbè, adesso quando sistemo il diplomo, vedrà come esce meglio. È una cosa differente. Gaba gaba. Gaba gaba, però ogni volta che lo chiami non risponde, io mi cago sotto. Ah, magari lo stanno chiamando al computer di turista. Giuseppe! Oi oi oi! Gesù sta collegando. Allora, che gioco faccio? Quando per sentire Giuseppe ogni volta che si rimuove la lancetta che fa tuc quando prendi il portante, arriva a fondo scala e parte. Quanto arrivo a fondo scala a casa tua? Sulla stazione sì, la stazione diceva bene, la stazione è molto sensibile, si comporta molto bene. Ad esempio gli ha fatto quella modifica per aumentargli la sensibilità e la posso riportare a sensibilità normale quando deve scendere le schede, praticamente la tengo aumentata, capito? Tu quando non metti a aumentare lo porto al massimo, inizia a amplificare. Tu arrivi che quando prendi il portale la lancetta sbatte e torna indietro di un millimetro. Aspetta domani che te la faccio sbattere del tutto domani mattina quando cambio con le resistenze. Ti faccio vedere come ti spaventi. Io non mi sono mai spaventato, mai. E ne ho visto cose calde. Ma io già con questo qui, avevo sotto la via 27L, lo sai? Lo sono andato a prima tacchetta, tutto a posto. La seconda tacchetta, ancora. Alla terza, aggiungo il vatto e metto il cazzo oscillare strano. Alla quarta, aggiungo questa carica, cazzo diventare rossa come un coso, come un peperone, ho pigliato e ho volato subito. Sì, l'ho attaccata nel terrazzino, mi ce l'avevo attaccata. E Mario, cazzo, hai sciolto la mia 27enne, ha detto a me, giù, tu la mia, usa di una futta, gli ho detto. E te l'ho portata apposta per divertirmi. Ha giù proprio sciolta la carica nera, che dove c'è l'agganciata la bobina, completamente sciolta. Venito della punta del cartone, il poveraccio. Comunque sono davanti a questo apparecchio e vabbè, adesso mi sono fermato dove sto parlando e mi serve la mano. riesco a uscire con pochi milliwatt, però c'è un problema. Moto NFM e non moto NAM. Moto NFM ma moto NAM. NFM è chiaro, pulito, so, cioè la radio è pulitissima, ma pulita che fa paura, eh. Io credo che sia la migliorazione che c'è il mio treno NFM, questo credo di sì. Però in AM non esce di niente, proprio niente, non lo so bene neanche, non esce basta. Capito, capito. Sì, vabbè, già troveremo qualche cosa, insomma, io faccio domani un giro su internet e guardo se recupero qualche cosa. Capito? Faccio un giretto, sai quante ce ne sono parecchie a Sassari, cazzo non parli. Ma quello è suo, Iocca. Poi lui. Ne aveva due o tre di quei baracchini, anzi il cartello, uno bello ne aveva anche. Uno con le bande laterali, adesso non mi ricordo la marca che c'aveva. L'ha trovato nella Modessa, dove lavorava lì al centro, all'ecocentro, capito? Lì ogni tanto andavano, buttavano baracchini, antenne, di tutto campava, alimentatori. Passava e se li portava via lui. Due o tre me l'avevano regalati a me. 34 canali mi avevano regalato, poi avevo modificato e me l'avevo venduti 50 euro uno a coso, a Mater l'avevo venduti. Ma adesso non stai parlando. No, caro, c'è Fabio. No, non lo sento. Non lo sento, sento me la pena a te. Chi è Giuseppe? No, è Franco di Sozzo. Allora senti anche Giuseppe. Giuseppe già se c'è dove si è sentito. Giuseppe, lo senti a Franco di Sozzo? Perché è ancora vivo? Ehi, ancora vivo. Evidentemente sta usando il computer. Si è calamasciato, ragazzi. Capo, dai, non li sento né uno né l'altro. Salutameli. Allora, oia, andiamo bene. Cavacappa. Che basso mi sento tu fra me? Sì, siamo un segnale di quasi 7, radio 4, 5, no? Possiamo andare. E adesso quant'è? 8. Ormai sta crescendo. 6, 8, radio 5. Adesso già cambia la questione. Chiaro che io. Vabbè, quando ci metti un po' di vitamine e so così. Però va bene, va bene. Sì, devo ancora modificarlo. Domani lo modifico, vediamo se funziona di più. Adesso è solo per provarlo. Anda bene, anda bene. Avanti Fabio. Capo, non faccio arrivare a Franco io, non mi sento, è vero? No, bisogna che ti do qualcosa ogni mattina mia. Lo spiri ci chi è? Agganci 100 watt con la corda a tore. Almeno c'hai 5 dB o 10 dB di in più. No, ho ordinato l'antenna, il capo. Quando arriva poi saliamo sul tetto e vediamo com'è la questione. Tanto per capire cosa dobbiamo fare. Vabbè. Ma c'è botola c'hai, adesso non ricordo più il quartetto tuo. Sì, c'è la botola con la scala. Devo andare giù nel locale con pattuglia a vedere se trovo il bastone per tirarla giù. No, perché una volta mi era capitata a cazzo salire al centro storico, cazzo c'era la ciabottola e la scala non ci arrivava, ma detto guido, aiutare, ti tiro su io, te lo trovo, ti preoccupare, vai giù, tu se devi andare, cazzo, io sono accorto, ho detto sono un altro 1,40, ho detto quando arrivare alla botta, ho detto ci sono 50, quasi un metro di differenza, tu sei tutto scemo, gli ho detto, sali tu su e te lo fai tu, gli ho detto. No, faccio la scala della prima terra, di quella molla, batti di giù, arrivati, già c'ho un cassino, tac, manda un pochino, ma è normale, ma va bene. E anche la Valiamata c'è la scaletta così, solo che quella che c'era lui era balla proprio, quando salivi sopra, per carità, cazzo, andava a destra, a sinistra, gli ho detto qualche giorno ci rimango qua sopra, gli ho detto. L'ultima volta che ho sentito è 20 anni fa, che ho messo a posto di base espansione, di carico automatico di base espansione della caldaia. Mi saliva bene, però sono passati 20 anni e adesso bisogna vedere. Anche 20 kg in più ce l'avevo io, e in meno potevo dire, quindi figurati, per quello già faccio passare, ma te, così nel caso ti incastri, io rimango giù, ti tiro. No, è meglio che passi più a su, così nel caso ti incastri tu, con la faccia, ti tiro giù io. Allora, Coco, sono io ieri. Già te la sistemiamo bene, quell'antenna, non ti preoccupare. Qua Giuseppe sarà un casino, guarda. Quando vedi quel tetto, guarda, ti metti le mani in testa, ti metti. E bisogna essere in tre. Due mantengono l'antenna e io con la mia cremetta compacciato, con la mola taglio i bulloni. E poi si deve, si cercherà di mettere qualche cosa lì per bloccare. E non la potessi piazzare un uovo di palo e se sono un casino. Lo vediamo. Stiamo tenendo Franco il parcheggio. Parla un po' con lui, se no, poveraccio, a me manco mi sente. Sì, mi sente Franco, voglia me. A te magari no, perché sei basso ancora. Quando metti l'antenna sopra il tetto, avanti, fa. Scappa, intanto non riesco a sentire gli altri e non riesco a fare un corso, dai, ci sentiamo. E continuo a guardarmi la televisione e rimango in quel rig in ascolto. Ci sentiamo, dai, saluto a tutti, quelli che non mi sentono. E ci sentiamo, Antonio. Yeah, ciao Fra, ci sentiamo le prossime, stammi bene, buon quel di buon tutto. Gama, gama. Stamattina sono andato alle 6:30 a fare colazione, Fabio, al bar. No, stavo salutando il franco, per favore. In che parte è andato? Dove eravamo ieri, capito? Mi sono pigliato il caffè, anzi due mi hanno giubilato il caffettiere, per esattezza. E mi sono pigliato, mi sono mangiato una pasta, alle 6:30 sono andato. Sono stavo appena appena aprendo. Deve riprendere questa vita. Io stavo parlando con quello del mio locale, con lo proprietario del bar, no? E, insomma, traffico non ce n'è più. Dove no, dove? Altre cose, Sonia sta visto riagganciando un po' di persone, ma prima non ci andava quasi mai nessuno, adesso invece ho visto che è pieno la mattina. Ciao Franco, che ci sentiamo, saluto dei bucoletti. Sonia si sta riempendo un pochettino e Gabriele deve cominciare tutto da capo, capito? Purtroppo è così, è stato 2 mesi, logico che le persone vanno al supermercato, si comprano roba al supermercato, mica prendono la birra a 3 euro. Ma in mezzo a te ce l'hai una di quelle lamine di ceramica, di quelle piastrine di ceramica per i dissipatori? Piastrine di ceramica per i dissipatori? No. C'ho dei dissipatori, mi sembra, in ferro in un apparecchio, ma in ceramica no. Hai visto il foglio di mica? Di mica? Quel fogliettino che separa quando il transito che stai dissipando non è a massa, per separarlo alla massa ci vuole la vite con la plastica per tenerlo separato e poi tra il componente dissipatore c'è un foglio isolante, no? Tipo di un vetrino strano, leggero, è presente. Ah, sì, ho capito. Devo controllare dove avvicinare di quelli. Isolatore in pratica, già ho capito. Ma a me non mi serve quello di mica, quello sottile che sembra un vetrino. Questo apparecchio qua, ho appena tolto il finale di trasmissione, questo apparecchio qua c'è il dissipatore in ceramica e questo qua è rotto, è spaccato. domani guardo, se è stato trovato te lo do. Mi sembra che ce l'ho qualcuno di quelli lì. Io conservo tutto, Vicky e tutta quella roba lì, devo controllare in quella scatoletta domani mattina. Se c'è te la faccio avere. Sì, tu sì che mi calmi il nervo. Ai Dio. Buonasera. Buonasera Dio. Buonasera Dino. Ciao fa. Allora, cosa avete combinato? Ma solo voi ci siete? E io. Antonè, ma perché ce l'hai con tutto il mondo? Perché ce l'ho con tutto il mondo. Oh yeah. Ogni tanto ti vedo su Facebook maledicendo chissà e chi vuoi. Ieri sera mi sono girato le palle, cazzo. Sono entrato a casa che era da un coso all'altro, cazzo. Che mi abito Fabio, sembravo il sindaco di Sosso, cazzo. Alla fine non ce l'ho fatta più. Mi sono entrato a casa, erano le 10. Andando e tornando, ogni tanto mi telefonava qualcuno, vai prendi questo, prendi quell'altro, ma va a fare. Sono rimasto tutta la notte in piedi. Sono andato alle 6:30, mi son preso le paste e mi sono mangiato le paste alle 6:30 del mattino al bar. Figurati. No, vabbè, ma queste sono cose che scrivi tu, basta, mi sono rotto le palle, mi vendo tutto. Con chi ce l'hai? Ce l'ho, non ti preoccupare. Adesso mi sto attrezzando. Bene, avrai le tue buone ragioni, eh. Poverino, bello. Che cazzo, non si sente più un tubo, cazzo. A un certo punto bisogna mungere. Pompa. Ragazzi, io ho scoperto che è vero che la terrazzino con due radiali di Mantova, cioè avevo fatto un'antenna e con 17 watt di questo baracchino appena smanettato ho parlato con Mosca. Se è vero che ci rimetto l'antenna sul tetto con cazzi di tutti, è altro che lineare manco ne uso, con 4 watt mi piace. Ma neanche io ne uso, cosa vuol dire? Sto dicendo, ho detto pompa, io manco lineare metto, via, 4 watt vi guardo dall'alto. No, io devo dire la verità, se avessi la possibilità di comprarmene uno da 2 kW l'avrei fatto, ma senza pensarci due volte, Davvero sì? Sì, è uno sfizio che poi magari mi dico, ma che cacchio me l'ha fatto fare, però non sai, sono quelle cose che ti vengono in mente, che vuoi provare, e una volta che le provi dici, non ne valeva la pena, quello è vero, però le vuoi provare. Io posso dirti che una volta sono uscito a 3 kW, io non lo so di già presto il giorno, no, non lo so. Ho preso un comodato in banda laterale, ho fatto due fischi, sono rimasto poi in accordo, anche il QRM si era abbassato. Ah, così, cambia. Un bel lineare da 1 kW, e ti dico la verità, che l'avevo provato con il 140. Sì, però forse la poca esperienza, non so, non me l'ho goduto più di tanto, dai, diciamo che forse avevo paura più che altro di rovinare la radio, perché non sapendo come manovrare, come pilotare, quant'altro, insomma. Oggi mi sono fatto una piccola esperienza, tra virgolette, quindi insomma la cosa è voluta, è ben voluta. E adesso come sto arrivando da Trentino? Ma guarda, io ti sto ascoltando col baracchino, non è che fa un passaggio? 1, 2, 3 attaccato, 1, 2, 3 staccato. Ma fai da 9, 9, 20, eh? Aspetti, se vuoi ti controllo anche con l'altro. Guarda, controlla con l'altro. Così sono liscio e così sono attaccato. Idem con patate. Ok, allora già funziona bene. Non è che dia tutti i fatti che mi deve dare, però domani lo facciamo come la volta, quello di Mario Massere. Lo facciamo salire a 8. Vabbè. No, beh, non mi ricordo se era quello lì che hai tu, quello di Benito. Non l'ho prestato, Marco Romeo, ti ricordi Antonio? A quello di Benito c'ha problemi di vedere, c'ha capito. Il potenziamento che è stato, che gli ho messo, mi ha detto Fabio che funziona. Adesso deve controllare il vedere, capito? E così glielo prendo. Speriamo che non faccia la cazzata un'altra volta, quello che glielo ho dato, ha fatto ritorno in stazione e si è imballato sulla rete, perché questa è la prima ultima volta che glielo faccio. Poi di andare al primo cassonetto c'è un rampa. Sono delle prove, Fabio, sono delle prove che mi vengono. Sai quelle foglie che magari cazzo non ne puoi fare a meno, che però poi una volta che lo prendi dici ma che cacchio me l'ha fatto fare? Sono quelle cose lì. Adesso sabato vedrò di fare un salto da un amico e vediamo di. A parte che devo lavorare lì, devo dare una mano, dai. Però riesco anche a sopprimere la mia voglia di provare, ecco. Fabio. Campo di Casino. Sono tornato.